pastiglie dicono che sei palloso. Se fai lo zorro dicono che sei stiloso. Se fai gangsta risulti pauroso. Se ti lamenti spesso sei troppo permaloso. Se fai la santa sei sfigata e devi darla. Se fai la storia stanno tutti ad aspettarla. Se sei intelligente stai sprecata. Se sei ignorante sei una che va evitata. Se hai troppo rispetto sei una montata. Se non hai rispetto sei una che va scartata. Se sei trasgressiva vuoi esagerare. Se stai per i cazzi tuoi sei una sociale. Se cresci in fretta sei troppo prematura. Se resti indietro sei uno scazzo della natura. Se sai parlare sei un mostro che fa paura. Se non dici niente per non far brutta figura. Cos'è che non va? Cos'è che non va? Se fai un mucchio di cazzate alla gente non va. Ma cosa c'è che non va? Cosa che non va? Dici la verità alla gente non va. Cosa c'è che non va? Cosa che non va? Se fai un mucchio di cazzate alla gente non va. Ma cosa c'è che non va? Cosa che non va? Dici la verità alla gente non va. Fai la dolce, sei troppo sentimentale. Fai la stronza e ti stanno ad insultare. Ti godi la vita, dicono non lo puoi fare. Se non te la godi non hai lo spirito ideale. Vai in televisione allora sei commerciale. Se non ci vai per gli altri non ti dai da fare. Usi metodi forti magari sei spaccosa. E se fai critiche dicono che sei invidiosa. Se ne freghi di tutto sei me ne freghista. Pensi al bene per gli altri sei troppo altruista. Parli di uno straniero e sei razzista. Se non fai nulla di ciò dipende dai punti di vista. Non credi in Dio, io sono uno scandalo. Se fossi credente per la gente sarei un angelo. Molti mi chiedono in cosa credo. Fino a prova contraria gli angeli stanno in cielo. Cosa c'è che non va? Cosa che non va? Se fai un mucchio di cazzate alla gente non va. Ma cosa c'è che non va? Cosa che non va? Dici la verità alla gente non va. Cosa c'è che non va? Cosa che non va? Se fai un mucchio di cazzate alla gente non va. Ma cosa c'è che non va? Cosa che non va? Dici la verità alla gente non va. Sai i soldi sei al centro dell'attenzione. Se non li hai non ti prendono in considerazione. La gente fa schifo, è colpa della nazione. Se ha paura di parlare e dire la propria opinione. Se forse non capisci allora sei un ritardato. Capisci troppo e dicono che sei raccomandato. Sveglia il mondo gira al contrario non l'hai notato. Che nel giusto c'è sempre qualcosa di sbagliato. Fai passi da gigante ma non te li puoi permettere. Non riesci a fargli ovvio che ci devi rimettere. Dico che queste realtà sono pronta a scommettere. E se sei un fiore allora io punto sull'essere. Se fai un po' con la spezza te la vuoi gaggiare. Se non lo fai pensano che sei troppo normale. A questo punto non so più che cosa fare. Non mi interessa, voi pensate al cazzo che vi pare. Cosa c'è che non va? Cosa che non va? Se fai un mucchio di cazzate alla gente non va. Ma cosa c'è che non va? Cosa che non va? Dici la verità alla gente non va. Cosa c'è che non va? Cosa che non va? Se fai un mucchio di cazzate alla gente non va. Ma cosa c'è che non va? Cosa che non va? Dici la verità alla gente non va. Perciò è vero che qualsiasi cosa fai o qualsiasi cosa dici alla gente non va.